get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never had before, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera e ben sintonizzate sul martedì femminista e lesbico autogestito di Radio Onda Rossa. Quella che state per ascoltare è la nostra 298esima trasmissione e questa sera vi faremo ascoltare la registrazione della presentazione di Sorella Outsider, il progetto di Margherita Giacobino su Audre Lorde, svoltosi il 1° marzo alla Casa Internazionale delle Donne di Roma e organizzato dal Caffè Letterario, dalle 5 giornate lesbiche, dal Kesbile e da noi del CLR. Grazie a Genziana del Kesbilè che ha interloquito con Margherita e grazie a Margherita di essere intervenuta. Vi ricordiamo che questo progetto letterario può essere sostenuto prenotando una copia del libro che verrà presto pubblicato. Chiunque fosse interessata può contattarci e faremo sapere noi in che modo si può fare. Per ora, buon ascolto. Sì, tutti conoscerete Margherita Giacobino, avrete letto il suo libro, l'avrete vista in altre occasioni, diciamo giusto due parole per presentarla per chi non la conoscesse. Margherita è romanziera, ha pubblicato il suo ultimo libro Il luogo fuori dal cavallo qualche anno fa, è anche saggista, ha scritto fra gli altri libri Guerriere, Ermafrodite e Cortigiane e Orgoglio e Privilegio, li ho detto in ordine inverso, 2004, insomma 2005 credo che siano le date. E quindi si è occupata di cultura in senso lato, lesbica, possiamo usare il termine cultura perché forse letteratura lesbica, per quel discorso che della letteratura tematica non è un po' una parola problematica, magari ci ritorniamo. E quindi ha pubblicato questi due saggi e tutte e due si aprono con la figura di Audre Lorde, che non mi sembra, mi sembra significativo. Perché Audre Lorde? Evidentemente perché secondo me ha avuto una grande importanza, un'autrice che ha detto delle cose molto importanti e personalmente mi ha colpita, mi ha dato degli stimoli. Il fatto che abbia sentito il bisogno di parlarne e di inserirla sia nel mio discorso sulla letteratura lesbica, vabbè, bene, fa parte, insomma. E sia anche in Guerriere, perché Guerriere è una famiglia cortigiana dal titolo, perché lei è stata e si è definita una guerriera, quindi era proprio diciamo anche uno degli elementi ispiratori quando ho pensato a quel libro lì. Quindi diciamo che una persona, un'autrice che era presente un po' nel mio panorama fino da diversi anni, d'altra parte era anche un'autrice che in Italia la si conosceva in maniera un po' ufficiosa, no? Qui, per esempio, a Roma, proprio è stata pubblicata alcune sue cose, anche addirittura sul bollettino del Clima, in passato, no? Che sono le traduzioni di Rosana Fecchetto, dei brani, delle parti, dei piccoli estratti di Audre Lorde sono circolati in italiano, ma sempre appunto in maniera anche di affetto, di attenzione, di quasi di culto, ma non con una pubblicazione ufficiale. Cioè se uno voleva avere un libro di Audre Lorde doveva comprare in inglese. E quindi per questo mi è sembrato importante farlo. Cioè, erano diversi anni che mi sembrava importante farlo. E poi improvvisamente, come tutte le cose che devono avvenire, non c'è un momento che avvengono. E in effetti questo è un po' quello a cui, che dicevamo anche prima quando chiacchieravamo con Margherita, no? Come di Audre Lorde si conoscano soprattutto alcune frasi che sono diventate degli slogan politici che si ripetono, no? Alle manifestazioni, in molte occasioni, però poi manca una conoscenza approfondita soprattutto per le persone insomma, non anglofone come ce ne siamo tante ancora. E guerriera, prima dicevi, che vuol dire guerriera? Guerriera era come si definiva lei. Lei quando si presentava a parlare, a recitare le sue poesie, si presentava come nera, lesbica, madre, poeta, guerriera. Non necessariamente in questo ordine, ma queste erano normalmente le cose che diceva di sé. Poi possiamo parlare perché diceva tutte queste cose. Guerriera era un attributo che lei si riconosceva, e la sua guerra, come si viene fuori molto bene in questi saggi che abbiamo tradotto, era la guerra contro quella che lei definisce la guerra contro la deumanizzazione. Cioè, noi viviamo in un mondo in cui una serie di interessi ci spinge, ci opprimono in vari modi. Lei parla quando dice noi, si rivolge a tutte le persone che non fanno parte di quella categoria che detiene un potere sociale e tende ad opprimere gli altri, insomma. Quindi parla delle donne, parla degli omosessuali, delle lesbiche, dei gay, parla dei neri, parla di tantissime persone, insomma, tutte quelle tantissime, numerosissime e vaste minoranze che costituiscono la maggioranza dell'umanità e che sono sfruttate, sono oppresse da quella minoranza che si definisce maggioranza. E questo ci tengo a precisarlo per farvi capire che lei rovescia i concetti. Lei quando la leggiamo, noi usciamo dal linguaggio convenzionale, veniamo un po' scrollati da quelle che sono le false contenute, perché lei è una poeta, dà grandissima importanza al linguaggio, e per lei è importante definire e smascherare, no, le bugie che il linguaggio corrente, convenzionale ci dice. Quindi la sua è una guerra contro la deumanizzazione, lei si definisce così, e un altro momento in cui spiega la guerra è quando usa una metafora, dice per l'assediante, per vincere deve fare tante cose, deve conquistare la città che assedia, deve buttare giù le mura, sconfiggere i nemici, superare le loro difese. Per l'assediato la vittoria è semplicemente nel sopravvivere, cioè la nostra guerra è la guerra per sopravvivere contro un sistema, contro dei poteri, contro delle forze economiche e sociali, culturali che tendono a distruggerci o deumanizzarci, cioè in qualche modo a ucciderci a livello materiale o a livello simbolico, uccidere almeno parti di noi moralmente, insomma. Questa è la sua guerra. Ed era una guerra che lei fa incessantemente, perché non è cioè una guerra che comunque intanto per cominciare è lontano dall'essere risolto, anche solo avviato in tante parti del mondo, e poi comunque una guerra che tende a ricominciare, insomma, a non essere finita. Ecco, spiegato che cosa voglio dire, perché lei usa delle parole che sono in un senso, diciamo, in un senso diverso da quello che noi intendiamo sovente, no? Noi siamo tutti contro la guerra, quello a chi è questa qui che si definisce guerriera? È quella che fa la guerra di resistenza, la guerra di opposizione a chi vuole schiacciarci. Quando parliamo di poeta, no? Parliamo di una Audre Lorde che fa un lavoro specifico, si diceva prima, sul linguaggio. Ci fai qualche esempio di questo, quello che viene fuori da questi saggi? Quello che abbiamo compattato in questo libro, che si chiama Sorella Outsider, sono tutti i saggi politici. È una mia definizione, saggi politici, potrei chiamarli anche saggi teorici, insomma tutto quello che Audre Lorde ha scritto al parte le poesie e Zami. Si tratta di una raccolta che può sembrare miscellana, può sembrare eterogenea, ma poi in realtà si rivela molto coerente. Comprende tre raccolte che sono uscite in America col titolo di i diari del cancro, Sister Outsider e Ghost of Light, un'esplosione di luce. Tutte e tre queste raccolte comprendono sia saggi, sia interventi che lei faceva con degni articoli, sia pezzi, brani di diari, cioè almeno le prime due, la prima e la terza comprendono anche i brani di diari. Quindi c'è un po' della sua vita privata, c'è l'aspetto più personale, che ne fanno gli altri, e c'è il suo pensiero, quello che lei rivolge agli altri, no? Il suo pensiero, quello che lei era militante, quindi si rivolge ai suoi compagni di strada, diciamo. Ma è una poeta. Lei è una poeta perché comincia a scrivere poesia molto prima di questi saggi, molto prima di Zani, e perché dice lei stessa, per molti anni la poesia è il suo unico linguaggio. Lei, fin da bambina, da cielo piccola, ha cominciato a parlare tardi, e poi parlava poco, e poi comunque aveva difficoltà a esprimersi, dice che aveva difficoltà a esprimersi in prosa, e addirittura, dice nell'intervista di Andrea Nolici, a pensare. Perché? Perché evidentemente il pensiero, quello che noi definiamo pensiero razionale, procede con dei metodi che sono astratti e convenzionali, che lei rifiutava. Lo scrivere in prosa voleva dire concatenare le parole con dei nessi, con degli usi che non le suonavano suoi, in cui lei non si riconosceva. Si riconosceva nella poesia, lei memorizzava fin da bambina delle poesie perché le servivano per esprimere il suo sentire. A volte la gente mi chiedeva qualcosa e io rispondevo con una poesia, e identifica in alcune poesie i primi momenti in cui lei veramente si ritrova, no? Comincia a capire che c'è un modo, un momento in cui ritrovare una sua autenticità, in cui esprimersi. E la poesia, dice, è il linguaggio più rivoluzionario che esiste, perché è quello che riesce a cambiare il sentire. La poesia viene da quel luogo che lei definisce la madre nera dentro di noi, la madre nera dentro di noi, che è la poeta, cioè viene da una dimensione interna che precede la razionalità e precede la comprensione. Lei è anche una filosofa, io tradurre un testo vuol dire frequentarlo parecchio, insomma praticarlo più di una volta, perché lo leggi, lo traduci, lo rileggi, lo correggi, e quindi vuol dire conoscerlo un po' di più. E quindi mi sono resa conto che lei è una filosofa, cioè ha una visione coerente, approfondita dell'essere, di cosa vuol dire l'essere umano, di cos'è la conoscenza. Lei distingue tra conoscenza e comprensione. Ci sono delle cose che lei dice noi possiamo conoscere, ma non comprendere. Noi lo vogliamo, però abbiamo questo difetto, dato dal predominio del pensiero astratto maschile bianco, di voler sempre comprendere anche cose, quindi vuol dire razionalizzare, vuol dire a volte dare interpretazioni sbagliate, vuol dire a volte falsare. Ecco perché la poesia è per lei l'unica voce autentica, perché la poesia ti porta a esprimere, a conoscere, senza voler per forza ingabbiare nel linguaggio razionale. E quindi, dice, la poesia insieme all'eros, insieme ai sogni, insieme ad altri momenti della nostra vita che eludono la razionalità, è il momento in cui vengono fuori delle cose che invece la convenzione del linguaggio razionale non ci permetterebbe di esprimere, ma cose che noi sentiamo dentro di noi. Quando lei parla di sentire, ne parlavamo prima, un problema che ci siamo posti traducendo, no? To feel, feeling, no? Di non tradurre, capite che non l'ha tradotto con sentimento, perché il sentire è qualcosa di molto più vasto del sentimento. E lei lo dice proprio a un certo punto, quando dice, io so che alcune cose sono delle cose che mi sembrano giuste, io devo dare valore a ciò che io sento, mi sembra che in una traduzione, a ciò che io sento come giusto. Ma sentire come giusto vuol dire che andiamo molto al di là del sentimento, no? Vuol dire che andiamo in una sfera cognitiva, andiamo in una sfera etica, cioè andiamo a definire un mio sapere, un mio conoscere, che viene dal profondo di me e che io devo riconoscere e valorizzare, e che devo però sottoporre allo strumento, a questo punto sì, della ragione, dell'analisi, a strumenti devo per poterlo, perché questa profondità, la madre nera dentro di noi, lei dice, è anche caotica, è anche terrorizzante. Noi allora non dobbiamo averne paura, ma per poter dialogare dobbiamo poi abbinarla con questo strumento che è razionale. Però la sola ragione, il solo strumento razionale che ci hanno dato i padri bianchi non è sufficiente, perché ci taglia fuori dalla conoscenza di questo sentire. Quindi lei propone invece una integrazione delle due cose, un'articolazione di queste cose. Ecco perché dico il suo linguaggio poetico, non perché lei usi dei termini particolarmente poetici, ma perché essendo molto attenta al linguaggio, è molto sintetica, è molto chiara e a volte lancinante nel senso di quello che ci dice. Cioè, quando io dico scritti politici, li ho definiti, ma sono abituata che il tenore solito degli scritti politici è pesantemente razionale, è di solito molto articolato e anche poi di solito tende a porre delle ragioni, delle priorità al di fuori del soggetto che scrive, cioè tende a riconoscere molto il mondo, no? E le convenzioni del mondo. Mentre Lord mette in discussione il mondo e le convenzioni del mondo ed è invece estremamente appunto sintetica, chiara e ha come in poesia, la poesia non si cura di spiegare, no? Di costruire tanti nessi, la poesia enuncia, no? E rompe. E così un po' la sua prosa è così. Quando lei ha cominciato a scrivere in prosa, ha cominciato quindi a utilizzare quegli strumenti che prima sentiva di non possedere, anche perché poi è diventata un'insegnante, no? Dice che lei ha cominciato per insegnare, è sempre voluto dire imparare, no? Ecco, questo è un altro dei modi di usare il linguaggio, che per lei insegnare era l'unico modo vero di imparare, perché la costringeva a entrare veramente dentro la cosa che doveva insegnare, la costringeva a conoscerla veramente, altrimenti lei non avrebbe riuscita a fare. E ancora quando, anche lo vedrete nel film, c'è un punto in cui dice: io mi sento un po' come era un antichi trovatore di un tempo che girava nel mondo e dappertutto portando le loro canzoni, i loro versi e tutto il vantaggio imparano qualcosa. Ecco, in quel senso lì lei è una poeta, cioè non è una che scrive, diciamo, elabora a livello teorico, anche se lei è una che pensa, no? Il suo elaborare a livello teorico c'è ed è sostanziale, ma lei lo esprime in questo linguaggio, molto diretto, molto, cioè in 5 pagine ti dice una quantità di cose che tu ci vuoi pensare un bel po', ecco. Questi saggi sono stati scritti durante un arco di tempo piuttosto lungo? Sì, no, non molto lungo in realtà. Sono stati scritti nel giro di circa 8 anni. Quando lei ha cominciato a scrivere nel 77, quando per la prima volta ha avuto una diagnosi di tumore. Ed è stato lì che la sua vita ha cambiato, cioè ha assunto quella che suo figlio ha definito una intensificazione, no? Ha preso un'intensità che lo dice molte persone, la vita di molte persone non ha mai. Trovatosi di fronte alla possibilità della morte, cioè alla concretezza della sua mortalità, e ha fatto un'analisi delle sue priorità, no? Cosa doveva veramente fare nel tempo che le rimaneva. E lei l'ha fatto, e ha scritto tutte queste cose, sono state scritte tra il 77 e l'85 più o meno. E riflettono anche una serie di passaggi, no? Cioè c'è molta coerenza, ma c'è anche uno sviluppo che poi si vede anche nel modo, perché lei comunque ha vissuto la sua malattia in maniera molto coraggiosa. Lei si ribellava sempre quando le dicevano che era coraggiosa, diceva ma no, non è coraggio, diceva anzi, per esempio lei diceva io dico che sono lesbica, non dico perché non vado nei luoghi, non era così semplice, immediato presentarsi per una donna nera, per esempio in una comunità nera, presentarsi come lesbica negli anni 70-80, lei ha cominciato a farlo praticamente negli anni 70, perché voleva dire incorrere in un rifiuto, no? Non era così semplice presentarsi davanti a un consesso accademico e presentarsi come lesbica. E lei diceva, io lo faccio perché così è una questione di sopravvivenza, perché così io mi pongo così, dunque ponendomi così tolgo agli altri il potere di farmi del male con questa cosa, di gettarmela contro, io affermo di essere così e quindi lì privo di un'arma, mi privo dell'arma di colpirmi con questa cosa, l'assumo, la prendo nelle mie mani, il mio essere lo prendo nelle mie mani e quindi diventa un'arma in mio possesso, non dei miei nemici. E la stessa cosa un po' ha fatto con la sua malattia, cioè lei non ha detto, si è resa conto di essere caduta in una situazione anche di mortale paura, probabilmente la mortale paura che può avere qualunque donna che si trova, qualunque essere umano che si trova di fronte a una diagnosi di cancro. E di fronte a questa mortale paura lei l'ha guardata in faccia. E qui mi ha detto, io mi rifiuto di negare, mi fa finta che non è così, o di rifugiarmi in speranze o negazioni, insomma, io devo affrontarla. E quindi ho cercato in tutto un lato di affrontarla a livello razionale, perché lei era una donna poi molto intelligente, e quindi di capire che cosa veramente le devo fare per curarsi, e ha fatto delle scelte molto alternative rispetto a quello che le proponeva la medicina convenzionale della sua epoca. Ed è per questo che lei è vissuta per circa 15 anni e non 3, 4, 5 al massimo come le avevano detto. E poi ha fatto delle scelte della sua vita, insomma, il fatto di sapere concretamente che devo morire mi mette di fronte al fatto che devo fare qualcosa di questo, devo fare nella mia vita quello che io veramente voglio fare. E quindi tutto questo discorso della malattia diventa paradossalmente, anche per noi che lo leggiamo, non un discorso più di paura, diventa un discorso di forza. Cioè leggere questa cosa ti comunica vita, ecco. Leggere il modo come lei ha affrontato proprio la sua mortalità ti comunica una grandissima vitalità, una grandissima capacità di prendere in mano la situazione, anche una grandissima capacità di gioia, cioè di vivere la vita per tutto quello. Insomma, io le mie priorità, io devo dire quello che devo dire, insomma devo fare il mio lavoro, la parola lavoro è sempre una priorità, devo godere il più possibile della mia vita e devo stare il più possibile con le donne che mi amano, perché lei dice, cita sempre l'amore delle donne come una fonte di salvezza nella sua vita, no? Di grandissimo sostegno. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doors of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Talking about a revolution. Quella che avete ascoltato era Tracy Chapman con il brano Talking About Revolution. E vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romani all'interno del martedì femminista e lesbico autogestito di Radio Onda Rossa. Potete contattarci scrivendo una mail a contatti@clrbp.it, su Facebook cercando CLR Donna. Il nostro sito è www.clrbp.it. Buon proseguimento di ascolto. C'è questo discorso molto interessante sull'erotico associato al lavoro, su queste combinazioni, associazioni di parole del tutto improbabili, no? per molte di noi, che però sono associazioni che danno forza, che scardinano, che ribaltano il piano. Sì, io loro mi hanno chiesto qual è il saggio che mi era piaciuto di più, è molto difficile dirlo, perché ce ne sono, perché molti sono veramente estremamente belli, interessanti, però dicevo quello che mi aveva colpito in primo luogo e mi è rimasto veramente in testa è anche il primo che avevo tradotto, perché mi aveva posto anche dei problemi, se vogliamo, gli stessi problemi che ti porresti davanti a una poesia, ti chiedi cosa vuol dire? Cosa vuol, cioè, a volte te lo chiedi, no? Ci sono le immagini belle che ti rimangono lì e però è come se tu cercassi di calarle nella tua vita, no? Di interpretarle alla luce della tua vita. E questo saggio, quello dell'erotico come potere, dove lei dice che l'erotico è una grande forza per le donne. E, quindi possiamo, che viene da dentro, no? Dal profondo, quindi possiamo immaginare che venga da un luogo, se non proprio lo stesso, molto contiguo a quello della madre nera che la poeta. Che però le donne ne sono state deprivate, sono state insegnate a non usarla, no? Non questa forza. E l'erotico è stato molto svilito, è stato ridotto al suo contrario, cioè la pornografia, è stato chiuso in una dimensione privata, nella camera da letto, mentre l'erotico, lei dice, è una dimensione invece che non è così, è molto molto vasta, comprende tutto. E lei lo vede molto l'erotico nel lavoro, cioè l'erotico è amare proprio, è ovviamente fare l'amore, è ovviamente l'energia, l'eros che si dispiega nei rapporti con le altre, ed è anche per l'energia del proprio lavoro. Lei dice, quando io, dice una delle cose, questo io mi aveva colpito, perché questo l'avevo capito da subito, no? E ci ho messo degli anni per, come dire, integrarlo nella mia, a volte noi pensiamo in modo convenzionale, tutti pensiamo in modo convenzionale, perché abbiamo solo gli strumenti lì, e cosa loro ti aiuta a sbarazzarti di qualche pastoia e acquisire altri strumenti. Lei dice, il lavoro è una cosa che si dovrebbe dare molta gioia, l'eros ci porta gioia, no? E quindi conoscere la gioia fa sì che noi poi chiediamo questa gioia a tutte le dimensioni della nostra vita, non ne vogliamo più fare a meno, quindi ci spinge all'eccellenza, ci spinge a volere il meglio, a dare il meglio e volere il meglio. È abbastanza insolito e originale, mi aveva molto colpito questo associare l'eros al volere il meglio di sé, no? Perché spesso si pensa all'eros come la passione che ti trova, una cosa che ho sempre trovato più detti che la trovo scema, non so, anche da più giovane, cioè la passione che ti travolge, no? Questo sì, per esempio c'è molto nella mistica eterosessuale, ma forse anche tra i lesbiche, cioè, forse lo sanno più. Lei è una gran stronza, però io non posso fare meno, cioè, queste cose qua. Cioè, più la passione è cieca, più bella, no? E però cosa ti porta questa passione? Cioè, che cosa... Mi sono sempre chiesto, ma perché uno quando ama deve essere scemo? Cioè, una donna deve essere... No? Te lo chiedi, no? Anche perché l'intelligenza, per mio conto, è un piacere, oltre che uno strumento abbastanza utile per non cadere, insomma, in situazioni, diciamo, non cadere proprio preda di tutte le trappole della vita. Allora, nel momento in cui lei mi dice che l'eros invece è una cosa che non è questo soggiacere passivo, ma è un attivo fare, lavorare, un attivo costruire la gioia e sperimentare la gioia, mi piaceva già. collegato al lavoro, lei dice, no, questo mondo così orientato al profitto, anziché al bisogno, alla soddisfazione dei bisogni umani, ci ha tolto il piacere del lavoro. Il lavoro è diventato una routine, una cosa che dobbiamo fare per sopravvivere. È come, insomma, praticamente questo mondo si comporta con noi come se uno accecasse una pittrice e poi gli dicesse che deve fare dei quadri, no? Cioè ci hanno tolto questa gioia, questo piacere di vedere, no? E come possiamo fare noi? Possiamo ricorrere alla forza dell'eros per recuperare questa intensità e questa gioia. Lei dice anche con le donne con cui io ho fatto l'amore, ma anche con cui io ho giocato, ho ballato, ho anche litigato. Io ho raggiunto una comprensione, un'intesa profonda che mi ha permesso poi di fare con loro delle cose, anche a livello di lavoro, di andare avanti, di delle azioni con loro che altrimenti non sarebbero state possibili. E quindi è evidente che lei non sta parlando della passione, cioè che per l'eros è un concetto nuovo, un po' diverso da quello lì che dicevo prima. E un'altra cosa che mi interessava quando dicevi la madre, la madre lesbica nera, no? E quindi questo rapporto con le donne nere e con le donne bianche. La madre lesbica non l'ho detto, lei però l'ha detto a un certo punto. No, lei ha detto. Lei ha lavorato molto sul concetto di differenza, no? Sulla differenza, perché lei si è sempre sentita un outsider, lei si definiva madre nera, poeta, ecco. Perché? Perché veramente, cioè perché voleva puntualizzare ovunque andasse che lei era tante cose diverse, che non si illudessero di poterla sussumere sotto un'etichetta. Lei era cose diverse e contrastanti. Perché lei aveva sperimentato che, per esempio, nella comunità nera, in quanto lesbica, lei era osteggiata, nella comunità bianca, magari anche delle lesbiche, però non veniva, cioè, c'era del razzismo che non veniva riconosciuto. E tutta una serie di, no, che quando anche le stesse lesbiche, il fatto che lei fosse madre, avesse, lei era stata sposata, aveva sposato un uomo gay, e sono stati sposati per 7-8 anni e poi sono lasciati, insomma, e lei ha convissuto per molti anni con una donna e poi con un'altra, insomma, però lei voleva salvare tutti questi aspetti di sé, non voleva rinunciare a nessuno, voleva chiarire che lei non si sarebbe lasciata etichettare come femminista in un luogo femminista, come nera in un luogo nero. Ecco, lei voleva che tutte queste sue differenze vivessero, perché riteneva essenziale per l'integrità, la sua integrità, di portarle avanti tutte quante. Dice, noi non possiamo fare una lotta single issue style, cioè una lotta su una sola cosa, su una sola questione, una lotta monotematica, perché le nostre vite non sono monotematiche, noi siamo tante cose, e quindi esplorare le differenze vuol dire cominciare ad esplorare le proprie, magari in conflitto anche dentro di sé, e poi dopo, quando uno comincia ad accettare e a costruire nessi tra le proprie differenze, in maniera che il rapporto tra le differenze sia costruttivo e dinamico e creativo e non di negazione, allora può anche farlo con le altre, no? E nello stesso tempo facendolo con le altre poi anche riesce a farlo con se stessa. Quindi perché chiede il rapporto con le donne nere, con le altre donne nere. Ecco, ok, io ho fatto tutta una lunga divagazione. La storia era questa, lei si rendeva conto di avere un grossissimo una grossima contraddizione con le donne nere, lei era attratta dalle bianche. Ha avuto appunto questa lunga relazione con una donna bianca, ha avuto molte amanti bianche, ha avuto questa amicizia amorosa con Adrienne Rich, cioè un'amicizia che però comunque era anche abbastanza intrisa di Eros, diciamo, proprio. Dentro di sé lei voleva anche, andava cercando un rapporto con una donna nera forte, una donna nera che in qualche modo la riportasse a quello che lei aveva molto amato in sua madre. C'erano ricerche di origini. Io non so se voi capitato, ma la ricerca di origine è una cosa che esula, cioè a volte lo si vede un po' le radici, allora lì facciamo del sentimento, ci asciugano un po' di lacrime, ci sono le nonne, queste cose qua. Cioè è un tema che è stato molto sfruttato anche dal femminismo, questo discorso delle genealogie femminili a livello teorico, a livello anche meno teorico. L'uomo lo affronta da poeta, accentrando sulla figura di sua madre, senza spiegare, ecco, cioè anche lì, delle cose lei non ce le spiega e quindi noi dobbiamo poi dare una spiegazione per noi stessi o comunque o accontentarci di prendere come sono, che forse è ancora meglio. Lei, sua madre le dice una donna potente, era una donna potente ma anche molto contraddittoria, una donna che non le dava, che le ha dato molto amore ma poco affetto, nel senso che era una donna molto dura, che affrontava i grossi problemi di una donna emigrata, una donna caraibica emigrata a New York, quindi lei con questa madre ha avuto tanti conflitti, tant'è vero che sono andata di casa a 17 anni, però sua madre era il personaggio più importante della sua vita, no? Cioè del suo passato, della sua formazione, e quindi lei lavora molto sul concetto, su questo, no? E lavora anche molto sul fatto che lei ha bisogno dell'altra, quello che chiama le sorelle, dell'altra donna nera, ha bisogno di donne che abbiano una comunità di esperienze con lei, una comunità, qualcosa, una somiglianza, no? Perché è su somiglianze e differenze, sulla dialettica, su somiglianze e differenze che si basano per tutte le nostre scelte, soprattutto affettive, ma non solo. E quindi diciamo che a un certo punto arriva in un saggio che si chiama Eye to Eye, cioè guardarsi negli occhi, no? Ed è molto poetico, uno degli ultimi brani di questo libro, a definire questo rapporto di straziante ambivalenza che lei ha con altre donne nere, cioè di grande desiderio, grande amore e grande conflittualità, perché dovuta a quell'odio, a quella disistima di sé che è stata instillata loro, no? Che quindi viene immediatamente rilanciata sull'altro, no? Niente, questo è un lavoro che lei fa e si capisce che lei lo fa gradualmente, che a un certo punto viene fuori, no? Proprio un suo proprio processo. Cosa vuol dire donna potente per altri loro? Cos'è il potere? Il potere, ecco, anche lì noi siamo abituati a considerare il potere, quando pensiamo al potere pensiamo a gente che ha, pensiamo agli uomini in generale, quando pensiamo a una donna potente, non so, a me mi viene in mente subito una che non so, la moglie di un mafioso oppure che ha tanti soci, cioè una che si chiama con certi nomi di potenti italiani, no. Parliamo di una cosa completamente diversa. Il potere è innanzitutto il potere di autodefinirsi. Vale a dire, e questa è una cosa importantissima per lei, nel momento in cui io devo potermi definire, il primo passo, no, verso la mia integrità, perché non devo venire definita dagli altri, cioè io, il mondo tende a definirmi, quindi a inquadrarmi, a mettermi in una certa categoria, a dirmi chi sono io e cosa ne può fare io. Nel momento in cui io mi approprio del potere di definirmi, cioè dico io, me stessa, chi sono, come sono e cosa mi interessa, cosa mi piace, il mio primo potere è questo. E questo potere mi dà poi anche la capacità di agire, no? Lo porto nell'azione questo potere, lo porto nel rapporto con le altre persone e quindi nell'operare per il cambiamento, perché alla fine è quello che importa in questa guerra contro la demonizzazione, cercare di cambiare le cose. Quindi questo è il potere di cui parlano. E sua madre era una donna potente ma anche contraddittoria, una donna che emanava questa forza vitale, perché sua madre era una donna che lavorava moltissimo, che teneva testa a questo razzismo imperversante, anche se lo negava, quindi disperdendo molta energia nel negarlo. Era una donna, tutti e due i suoi genitori si sono fatti un culo così, scusate l'espressione, per andare là, cioè il suo padre è morto poco più che cinquantenne, esaurito, cioè morto di faceva 3-4 lavori, non lo, cioè, la madre era appunto anche lei una donna che lavorava moltissimo, che aveva grande ambizione per le sue figlie, che aveva una grande capacità, un grande coraggio, una grande capacità di affrontare le situazioni, ma non di verbalizzarle né di neanche lo voleva neanche riconoscere, cioè che non aveva che strumenti probabilmente. Comunque, il potere era per lei, cioè il potere per lei è una cosa che noi abbiamo, che ognuno di noi può avere, no? Venire in possesso del proprio potere è un processo di crescita e vuol dire vivere una vita consapevole, in cui sono io e non qualcun altro per me a fare le mie scelte. Quando parlavamo prima, no? Veniva fuori anche nella tua lettura dei saggi e il discorso per cui questi saggi saranno pubblicati da noi con 20 anni di ritardo, no? Rispetto alla stesura, anche di più. Anche 30, è vero. Qual è la modernità di Audre Lorde? Perché ci attiniamo, no? A volerla ancora leggere, a volerla studiare. Come mai, per esempio, non ce la ritroviamo nei manuali scolastici, non dico italiani, visto che non è proprio tradotta, chiaramente, no? Però non credo che ci sia neanche nei manuali di letteratura americana. Ma io non sono una grandissima frequentatrice dei manuali, non lo so se c'è, penso che non ci sia. In America, innanzitutto, adesso faccio una considerazione generale. Come tutte le donne forti, e Audre Lorde non è comoda, cioè quindi non è che possa essere proprio, diciamo, una lettura così amena va bene per, no? Normalmente chi gestisce, chi controlla il canone, chi tramanda ai posteri cosa deve passare ai posteri e cosa non deve, non è cioè qualcuno che fa parte di quella schiera di padri bianchi, insomma, che tende a non scegliere poi in questo canone, a non inserire in questo canone persone un po' scomode. Lei è stata, nella sua vita, ha avuto dei riconoscimenti. Lei è stata, a un certo punto, diventata un po' mitica per le altre, è diventata una figura di culto. Per molte donne, soprattutto nere, della sua, un po' più giovane di lei, lei era un po' un mito, lei emana un carisma, emana un qualcosa per cui le altre persone la considerano con grande rispetto e ammirazione. Lei ha pubblicato libri di poesie, sono stati tutti pubblicati, sono stati riconosciuti, è stata nominata, poco prima del 91, è stata nominata poeta ufficiale dello Stato di New York, non è che sia stata ignorata. È chiaro che quello che lei dice appartiene a quel tipo di cose che difficilmente entrano nel canone e quindi la conoscenza di queste cose poi circola in canali che non sono così quelli proprio ufficialissimi. In Italia poi in particolare le cose che vengono pubblicate sono pochissime e poi vabbè in Italia non so, sono 20 anni di ritardo. Anche l'anno scorso ha fatto il suo film nel 2012, 20 anni della sua morte. Vediamola così, questo è l'80esimo, cioè oggi, adesso se Audre Lorde fosse viva compirebbe 80 anni. Quindi noi stiamo festeggiando il suo compleanno. At night, I feel so lonely. There's a body next to mine, and I'm feeling cold. And baby, in the morning light, when I look in some stranger's eyes, it's then I know that the need in me is really for your paradise. I dance, I sing, but there's something missing. Every night a different name to call. try so hard to make it right, but it always ends up the same. I need you like I needed you the first time we kissed. I need you and I need you now and I can't resist. Standing by your door in case you need. I miss you mostly in the night and I miss you all through the day. For hurting you, yes, I know I drove you clean away. Get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe.